piatto, soppianto, usi i costumi del tipico piatto. Lontana il pianto, pianto in asso, cambio in peggio secondo il massificato parere di fondo. Il nome sullo sfondo, il consumismo da oggi si trova di fronte a un nemico stronzo. Il prezzo è troppo alto, allora non compro quel prodotto. Guardo in basso nei pressi della ruota del carrello e poi lo scorgo, penso e forse compro. Forse preferisco esco dal centro, cammino svelto, cammino d'anche. La citazione costa meno al discount rispetto al supermarket. La qualità si fotte, a morte chi non dorme se il prodotto non è a norme. Poi fuma sigarette, contraddizione ovunque. La spesa lasciatela fare alle vostre mamme. Discount, no supermarket. È come dire skater, fuck, rollerblade, simbolo di oasi. Ora si ragiona, ora si risparmia. Ora la merce vale la pena comprarla. Alla merce voi della Barilla. Compro pasta a mezzo di succo Tuli, bravo Rauch Team, prodotti LD. Tu compri sugo Star, risotto Knorr e baby skipper. Sei un pirla, ti sei fatto abbindolare dalla strafiga che si sbrodola con yogurt di fragola. Confessa, confessa, sei una pezza da piedi ai piedi dei consumi. Mangiare sì, ma prendi il tuo sushi e mettitelo su per il sushi. Il ristorante etnico, costo un etnico della testa. Roba che se trovo la ricetta faccio una corsetta al dico e preparo una cenetta per 30 spendendo tra le 1000 e le 1500 lire a testa. Resta pure nel tuo centro commerciale a fare spese. Io discount, lazze biose, pubblicità palese. Basilare, l'arte di comprare, impara il supremo segreto dalle più antiche maestre massaie. Vedo le strade sempre più piene di gente cui tocca pagare, lamentare, guidare vetture costose, mangiare pietanze intrise, non di sapore, ma di strategia imprenditoriale. Roba che nel degustare mi vedo apparire la sala riunioni, fabbrica, zio Paperone, che cerca il nome migliore da far combaciare con la mia voglia di pane, pasta, yogurt, salsiccia, cipolle, maiale. Normale? Io voglio mangiare, non voglio rientrare in nessuna cazzo di fascia di osservazione. Media mensile, consumatore, domanda, offerta, pagabile a vista dal portatore. Oppressione che posso sfogare comprando, mangiando cibo e non presunzione. Merce senza pretese, pitanze comprese, preconcetti datati. H, qualità alta uguale prezzi elevati. La mia risposta, discount, discount nel bene e nel male. Discount lo fai generale, discount. Un mondo migliore dove tutti parlano tedesco. E conservare vuol dire alterare la merce nello scatolone e non sullo scaffale. Entrare, guardare, uscire senza comprare. Compare, campare, campare, starro bagnati. Findus ha finito di vivere. Cassiera al discount, H, persone valide. Non voglio mignotte stupide, vecchiette acide. Voglio pagare poco, andarmene, tornare a tasche placide. Voci tacite, marche ignote su cui ridere. Merendine dichiaratamente chimiche. Austere paste da cuocere, basta, davvero basta. Facciamo un rave party all'LD e beviamoci una sana giaffa trangugiando un'insalata messicana, croissante, crema di gusto. Basta, basta il centro commerciale. Ha chiuso il centro commerciale. Adesso la spesa la faccio dove dico io, come mi ha insegnato la mia nonnina. Al discount vado io. Discount.